Buongiorno a tutti e tutte, siamo tornati con le tornate, con le interviste di Volevamo parlarvi di Genova. Oggi è con noi Nadia. Ciao Nadia. Ciao, ciao, ciao. Che dopo si presenterà. Noi ormai siamo agli sgocci di questo progetto perché ci mancano soltanto due interviste, questa è la penultima, quindi ormai ci siamo arrivati, anche se l'anniversario di Genova, il ventennale di Genova è già passato. E niente, allora io prima di far rappresentare Nadia le leggo l'introduzione come abbiamo fatto con gli altri e le altre che abbiamo intervistato e poi partiamo. Allora, ciao Nadia e grazie mille per la tua disponibilità. Sappiamo che non è mai facile chiedere a chi era Genova nel luglio del 2001 di parlare di quell'esperienza, ma riteniamo che sia stato un momento fondamentale della storia dei movimenti e di quello nostrano in particolare. Oggi guardiamo a quelle giornate come uno snodo cruciale attraverso il quale si è articolata la nostra storia più recente, ed è proprio attraverso la lente della storia che vorremmo narrare diverse esperienze e punti di vista, tentando di metterle insieme per provare a superare le memorie soggettive, cercando di non giudicare il punto di partenza di ognuno ed ognuna, ma focalizzandoci sul punto di arrivo. Il punto di arrivo è quello che quotidianamente cerchiamo di costruire in molteplici modi e forme nei territori che attraversiamo e viviamo qui ed ora. A distanza di 20 anni da quelle giornate, pensiamo sia possibile, oltre che doveroso, sospendere le divergenze e provare a trasformare in storia quello che fino ad oggi abbiamo chiamato memoria collettiva. Siamo totalmente consapevoli dell'ambizione di tale esercizio e di quanto fragili siano alcuni rapporti sul quale si basano gli equilibri del movimento, ma siamo altrettanto consapevoli dei molteplici punti in comune attraverso il quale ripartire con una nuova narrazione. Una narrazione che parta dalla repressione vissuta da tutti e tutte e che prova ad andare oltre gli errori, oltre le visioni personali e personalistiche. Che parta dalla consapevolezza di aver vissuto un momento unico nella nostra storia, che parta dalla consapevolezza che a Genova avevamo ragione. Lo stato pietoso in cui versa il nostro pianeta, la svalutazione totale delle vite umane, sono solo alcune delle tante prove di cui avremmo volentieri fatto a meno. Ok, questa è l'introduzione e adesso andiamo subito con la prima domanda, così ti puoi presentare. Allora, se hai voglia, potresti raccontarci un po' che tipo di percorso individuale e collettivo ti ha portato a Genova nel luglio del 2001? Di che area politica facevi parte? Che clima si respirava? Quali erano le tue aspettative? Quali erano le relazioni che passavano tra il collettivo di cui facevi parte e il resto del movimento? Vai, iniziamo da qui. D'accordo. Allora, comincio subito a dire che sulle origini di Genova ci sono varie interpretazioni. C'è chi dice che ha le sue radici a Seattle, chi che ce l'ha già nella rivolta zapatista. Per noi, diciamo, del movimento femminista c'è un antecedente che è la nascita della Marcia Mondiale delle Donne contro le Violenze e le Povertà, che è nata con le prime riunioni nel 98-99 e che ha avuto il suo grande exploit nell'anno 2000. Perché dico grande exploit? Perché dopo anni che il movimento delle donne in tanti paesi si occupava più, diciamo, di cultura, mettere in discussione l'ordine, soprattutto in Italia, l'ordine simbolico delle cose, l'androcentrismo, e aveva formato tanti circoli appunto culturali. E faceva azione spesso di lobby o accanto alle istituzioni, con più o meno successo, spesso meno. La marcia delle donne, la marcia mondiale delle donne, ma non sto a ripetere ogni volta tutto il titolo, okay. Nasce con l'idea che bisogna mobilitare, bisogna scendere in piazza, bisogna uscire, portare corpi e menti, persone di donne in piazza per creare rapporti di forza e strappare libertà, conquiste, diritti, insomma, per cambiare le cose. E questa era una novità, era dopo le conferenze internazionali dell'ONU sulle donne, Pechino, eccetera, eccetera. Era l'idea: ok, è bello fare delle conferenze, è bello incontrarti, però appunto bisogna far tornare all'azione come era, metti, negli anni 70, nella seconda ondata femminista. E bisogna farlo a livello globale, perché a Pechino, a Hairu, c'era stata questa conferenza enorme con 100.000 donne di tutto il mondo, dove un po' il femminismo italiano, anche che un po', era un po' provincialotto, si è reso conto che c'erano movimenti femministi e movimenti di donne in tutto il mondo, soprattutto anche nel sud del mondo, di tanti tipi e tanti femminismi. Allora si è capito già lì che il patriarcato è un sistema mondiale in tante articolazioni, ma è mondiale, e che bisogna reagire anche a livello internazionale, internazionalista. Quindi nasce questa cosa meravigliosa, che era un movimento costruito dal basso, dai movimenti di base, collettivi, associazioni, delegate sindacali, donne che si occupavano di centri antiviolenza, di migranti e di tante altre forme di protagonismo femminista e femminile, da lì a costruire coordinamenti nazionali, continentali e internazionali. Così è nata questa, in un anno e mezzo abbiamo messo in piedi un movimento mondiale che è esistito in più di 150 paesi, con coordinamenti appunto nati dal basso e strutturati poi in su, per fare un anno di azioni che partivano dall'8 marzo 2000 a il 17 ottobre 2000. 8 marzo, giornata internazionale ovviamente delle donne, 17 ottobre, giornata contro la povertà, e in mezzo un sacco di azioni anche transfrontaliere o locali, o insomma con la creatività di ogni coordinamento a mettere in piedi quello che si collocava dentro una piattaforma internazionale e delle varie piattaforme nazionali che sceglievano appunto secondo le sue priorità quali erano le cose su cui premere, su cui agire in quel contesto lì. E, la piattaforma internazionale era già una critica, un'analisi molto critica della globalizzazione neoliberista, che individuava già allora un intreccio molto forte tra sfruttamento, diseguaglianze, discriminazioni di classe, di genere, di razza, di origine, cosa che è tornato, ma poi ci torneremo, è tornato nel movimento che noi chiamiamo della terza ondata femminista, che è nato in questi anni, da tre quarto anni a queste parti. Ma allora questo intreccio, che le donne facevano una critica al sistema capitalista o neoliberista, era abbastanza nuovo, e che si scendeva in piazza in modo globale. Quindi nasce nel 2000 questa rete, questo movimento internazionale. Ma scusami Nadia, quindi dato che adesso si fa un gran parlare, no, dell'intersezionalità, del concetto, esatto, che tutte le lotte sono e nacque in quegli anni e adesso è stato un po' ripreso, è stato definito meglio. Esatto, noi non utilizzavamo quella parola, però i contenuti erano quelli, stesso. Esattamente. E, però non eravamo un po' a controcorrente, perché appunto soprattutto in Italia diciamo che c'erano altri focus, altri accenti su un femminismo più, come dire, più integrato, diciamo, ecco, e dove parlare di classe era un po' un tabù. Ecco lì, questo, in questo percorso cosa succede? Che noi ci troviamo nel culmine di questa mobilitazione, prima a Bruxelles per il livello europeo e poi negli Stati Uniti, a New York, e dopo quello che doveva rimanere un'azione di un anno era così bello, quello che avevamo messo in piedi, che avevamo detto no, questa cosa deve continuare. E incrociamo un invito a venire a gennaio a Porto Alegre, che era il primo forum sociale mondiale, dove si incontravano dei movimenti che, come noi, erano contro questa globalizzazione, dicevano un altro mondo è possibile. E allora noi fresche abbiamo mandato delle delegate, chi poteva, del mondo intero, sempre un gruppetto, saremmo stati una ventina più le brasiliane, a Porto Alegre, anche però vedendo che sì, coincidevamo su tantissime analisi, ma mancava molto spesso un'autocritica rispetto alle dinamiche sessiste, patriarcali, eccetera, eccetera, anche nel movimento no global o altermondialista. E noi abbiamo detto sì, però ci abbiamo tanti punti in comune, cerchiamo di contaminare questo movimento anche da un punto di vista femminista, quindi di far aprire gli occhi anche sulle disuguaglianze di genere, sui problemi anche all'interno del movimento, di mancanza di solite cose, mancanza di portaparole, di comunicatori, donne, che pure c'erano tantissime donne presenti, ma le solite dinamiche i grandi nomi, i personalismi, dei grandi leader maschi che tendevano a discriminare, a trascurare non solo le donne in quanto leader politiche, ma anche i contenuti che portavamo, che riguardavano i diritti in generale, insomma quello che adesso in questi anni va sotto il titolo violenza contro le donne, violenza di genere, che però comprende non solo violenza fisica e psicologica, ma anche violenza economica, comunicativa, tanti, tanti tipi di violenza, diciamo. Noi lo dicevamo in altre parole, però quei contenuti cercavamo di portarli dentro il movimento no global, di farci ascoltare e attraverso di noi fare aprire gli occhi su tutte le disuguaglianze di genere che attraversano il mondo e che noi abbiamo visto, vissuto e arricchito la nostra analisi proprio in questa rete, su come questa cosa che noi chiamiamo patriarcato, ma che è articolato in moltissimi modi a secondo del contesto geopolitico, culturale, economico, eccetera, come questa cosa era un dato universale e appunto fa parte integrante di un sistema che noi vogliamo combattere e in cui appunto abbiamo tanti pezzi in comune da fare, però a condizione che anche il resto del movimento, che fosse ecologista, sindacalista, quel che vuoi, aprisse gli occhi a questa problematica che è per noi universale. Questa era la scommessa quando siamo andati a Porto Alegre. A Porto Alegre abbiamo incontrato ovviamente anche altri italiani, altre italiane, che poi lì hanno portato la proposta della mobilitazione a Genova e ci siamo inserite quindi in Italia in tutto questo percorso della preparazione Genova Social Forum. Mi fermo magari un attimo qua, non so se hai domande. Sì, io volevo farti un migliaio di domande, in realtà ti ringrazio già tantissimo perché le cose che ci dici sono veramente, cioè, discorsi potrebbero iniziare un milione, se ne potrebbero fare. No, io a questo punto volevo stringerti su una parte della domanda che ti ha appena fatto, cioè quali erano le relazioni tra il movimento di cui facevi parte tu e gli altri movimenti che erano presenti a Genova e prima Social Forum. Tu hai accennato, il movimento femminista non veniva tanto preso in considerazione. Esatto. sembra quasi, da quello che dici, che c'erano le lotte per cui contro lo sfruttamento, contro la disuguaglianza, contro il capitalismo, contro il fascismo dello Stato, ma si reputava quasi che la dinamica di potere uomo-donna e patriarcato fosse una cosa secondaria o non, come si dice, inserita nella genetica del potere, del capitalismo, dello Stato, eccetera. E Esatto. quindi la domanda che volevo farti era, cioè, nel tuo vissuto, cioè, tu facevi fatica come femminista nel movimento o venivi ascoltata? Era difficile parlare con i compagni maschi, con compagne che non facevano parte dei movimenti femministi perché non venivi presa in considerazione per le tue posizioni o come? Cioè, come ci si relazionava tra anime dei diversi movimenti? Beh, devo dire che Porta Alegre ci ha un po' aiutato in questo perché, visto che noi eravamo lì tra le fondatrici, diciamo, tra le associazioni che hanno dato vita a Porto Alegre dall'inizio, come rete mondiale, non è che ce n'erano tanti di reti mondiali, c'era per dire la Via Campesina, che è la rete contadina mondiale. C'era ATTAC che aveva era una rete internazionale, qualche ONG, quindi diciamo se ce n'erano una decina di reti mondiali, magari adesso sparo un numero, noi eravamo tra quelle e quindi per forza dall'inizio ci siamo fatti spazio, ci siamo fatti ascoltare a Porto Alegre e quindi questo ha avuto anche poi un'influenza sulle relazioni in Italia, perché eravamo riconosciute. Ma diciamo, era un riconoscimento un po' formale, nel senso che si sapeva che si doveva anche lasciare spazio alla femminista di turno, però non c'era una coscienza che le relazioni di genere sono un asse strutturale di oppressione che si intreccia con gli altri assi e non solo un appendice che insomma un po' marginale rispetto alla problematica centrale che sarebbe quella coloniale, imperialista, classista, eccetera. C'era una specie di riconoscimento tipo, ah sì, e poi bisogna metterci le donne, non so come Certo, dire. una specie di Però contentino. formalmente diciamo che c'era almeno il movimento era arrivata alla coscienza che nei testi, nei comunicati ci doveva essere anche il Doveva pezzo partire femminismo, diciamo, ma veniva un po' lì. appaltato Ok. alle addette ai lavori e non veniva, non siamo riuscite in tutti questi anni, adesso parlo in modo ovviamente generale, poi ci sarebbe da specificare in ogni contesto specifico, ma spesso non riuscivamo a veramente far penetrare questa analisi negli altri movimenti, con una grande eccezione di cui siamo molto fiere e che non è per niente scontato, che all'interno della Via Campesina, che non so se tu conosci, che è questa rete meravigliosa, contadina, mondiale, anche loro, anticapitalista, antiglobale, antiimperialista, insomma, di cui fa parte il Movimento Sem Terra del Brasile, per dire, no? Che è un'iniziativa loro. E lì, dopo anni di collaborazione nei forum sociali, non solo con la Marcia Mondiale delle Donne, ci sono stati dei passi in avanti enormi al loro interno in termini di depatriarcalizzazione. E questo è stato per noi una cosa molto importante. Ma invece questa famosa contaminazione che noi auspicavamo, in Italia c'è stato molto meno, è stato più difficile, ma anche dipendeva anche un po' dalla forza del movimento femminista, diciamo, di questo movimento femminista anticapitalista, che era in Italia non fortissimo. soprattutto nei sindacati, anche nei sindacati conflittivi, sindacati di Certo. base, non c'era una tradizione interna di femminismo, di collettivi, di compagne, di lavoratrici, e neanche negli altri movimenti, in Attac, nel Movimento Verde, insomma, non è stato facile. Ma ti chiedo scusa, una domanda che magari è anche un po' scomoda. Tu dicevi che non c'erano componenti forti e strutturate di femminismo all'interno di sindacati di base, conflittuali, cioè, o anche all'interno di altri movimenti come Attac, eccetera. Sì, Ma per non come. parlare dei confederali, Cioè, ovviamente. chiaro. No, quello che mi domandavo era: ma questo secondo te accadeva perché non venivano lasciate alle compagne gli spazi apicali di decisione, di potere, o proprio perché le donne non partecipavano a questi ambiti? Cioè, li sentivano come spazi dove non si potevano esprimere, quindi non c'erano. No, non è che non partecipavano, ma non c'era spazio ai vertici. Ok, quindi come al solito la base era formata da uomini e donne, i vertici organizzativi delle strutture politiche, dei movimenti non permettevano alle donne di poter partecipare, cioè di poterci essere anche nelle posizioni più come si dice, di Sì, ma riferimento. non è solo questione di non permettere, è questione anche di come il patriarcato agisce nella vita quotidiana di uomini e donne, quindi c'entra con il ruolo di riproduzione, di cura delle donne Ok. lavoratrici, per esempio, per cui è anche soggettivamente più difficile per loro, anche volendo, partecipare, fare politica, avendo sulle spalle, proprio per la divisione dei ruoli tradizionali che c'è ancora nel 2020 e non solo nel 2000, in questa società, che fa sì che le donne comunque sono, si suppone che siano le donne a garantire la sopravvivenza, la cura quotidiana delle persone che gli stanno intorno, e questo fa sì che tutto il resto, il lavoro, se ce l'hanno dipendente o comunque per il mercato, e ancora di più la partecipazione alla vita pubblica è un peso molto grosso, è molto più difficile già, proprio per il tipo di divisione sessuale che c'è, che attraversa tutta la nostra società, oltre a quello che diciamo sempre sulla formazione, l'educazione alla vita pubblica, che è molto più facile per i maschi che per le femmine, il condizionamento psicologico, eccetera, eccetera, eccetera, e mette in più di tutto questo anche che appunto i maschi, che da 10.000 anni sono il sesso dominante, difficilmente cedono spazio quando possono occupare il palcoscenico. Quindi ci vuole un movimento, ci vuole forza, e appunto in Italia non ne avevamo tantissima, era un po' appunto perché in Italia gran parte del movimento delle donne aveva scelto di stare nei spazi suoi. Un po' la generazione degli anni 70, che era già stata scottata, ma adesso non vorrei andare indietro fino alla preistoria, però diciamo negli anni 70 già il movimento delle donne, del femminista, si era un po' scottato a cercare di farsi valere, e molte si erano ritirate, diciamo, in spazi non misti di cultura, e non disputavano più il potere, famoso potere, negli spazi misti. Avevano un po' gettato la spugna rispetto a questo, ma spesso anche teorizzando che era più bello il mondo di solo donne, delle biblioteche donne, dei centri culturali donne, dei consultori, del centri, così. Quindi si era prodotto già questa dinamica, diciamo, e quindi non avevano neanche più tanta voglia di confrontarsi con altri movimenti sociali. Invece noi fresche fresche nel 2000 abbiamo detto perché non provarci. Questo è un movimento nuovo che parla di tutto il mondo, dice un altro mondo è possibile, vuole rimettere in discussione tutto, quindi proviamoci a farlo A veramente, mettere in discussione portandoci tutto. anche Ok, questo. allora a questo punto ti faccio ancora una brevissima domanda prima di passare alla seconda domanda della nostra intervista. A Genova si parla sempre del primo giorno, il corteo dei migranti, del secondo giorno, il corteo delle tute bianche, l'omicidio di Carlo, il terzo giorno, il grande corteo finale con gli scontri in via Kennedy, eccetera. Ma per le femministe, per i femministi, quali furono le mobilitazioni proprio specifiche? Avevo organizzato, ci furono delle iniziative di piazza, dei dibattiti, delle presentazioni dei cortei, perché nella storia, tra virgolette, ufficiale o più conosciuta, non si dice, non si parla molto di movimenti femministi che No. hanno compiuto azioni in quei giorni. Ecco, in realtà nella marcia poi c'erano anche altre, probabilmente anche altri collettivi, e ti parlo soprattutto questo, che la marcia mondiale era proprio un po' quella che riuniva un bel po' di gruppi a livello italiano e che aveva proprio puntato a cercare una dialettica con il resto del movimento. Noi avevamo però un problema all'interno, che c'era una parte che io chiamo ultrapacifista, e dicendo ultra ovviamente già svela un mio giudizio, ma diciamo una parte che non voleva assolutamente arrivare a scontri di piazza e non voleva neanche, aveva anche paura di scendere in piazza. Nel contesto terribile che si era creato, la tensione che si già tagliava col coltello anche qualche settimana prima, e che ha voluto fare un mese prima del G8 una conferenza femminista, un convegno femminista a Genova che si chiamava appunto G. Dove abbiamo fatto venire anche molti esponenti del movimento femminista internazionale, e gran parte di queste sono anche tornate poi in piazza durante il G8, ma altre, quelle appunto diciamo ultrapacifiste, non sono neanche venute poi in piazza con noi, con la Marcia Mondiale delle Donne, che erano di loro erano di altri collettivi. Noi, quindi i momenti proprio del G8. Noi abbiamo cercato di formare uno spezzone, ma non ci siamo insieme ad altri movimenti o nelle vicinanze, ma non ci siamo neanche riuscite a trovarci e siamo state subito in mezzo alla confusione, spezzate in tanti pezzetti, e abbiamo vissuto Genova purtroppo nella confusione e nella repressione, non, per noi è stato così, insomma. Ok, ho abbassato inavvertitamente il volume del microfono. Ok, ti ringrazio. A questo punto procederai con la seconda domanda. A fronte dell'intensità di quelle giornate, se hai voglia vorremmo che ci raccontassi come sei tornata da Genova. Cioè, è una domanda difficile, ma vorremmo chiederti se a livello individuale e collettivo si erano modificati i rapporti tra le anime del movimento, e in parte ce n'hai anche già parlato riguardo a come si furono viste poi le femministe nel dopo Genova. E quindi, se hai voglia di rispondere a queste due domande, come si è tornata da Genova e come si sono modificati i rapporti tra le anime di movimento? Ma è una domanda di un po' difficile, ma diciamo che personalmente ho vissuto una gran rabbia, ovviamente, e una gran voglia di rafforzare ancora di più il movimento, la collaborazione. Per me la repressione ha rafforzato di più la volontà di continuare il movimento, di allargarlo e anche di ascoltarci. Quindi, ecco, ma mi rendo conto che è molto soggettivo, non so, è Ovvio. E questo è un po' il mio vissuto, infatti dopo da Genova almeno nei 2 anni successivi, poi ci sono stati appunto un allargamento di social forum dalle grandi città alle piccole città e una voglia di reagire che ci ha preso un po' tutti e tutte, secondo me. Poi non so, io personalmente non ero e non sono molto addentro magari a dei ceti politici un po' più organizzati che magari, boh, no, questo non lo so, non te lo so dire. Ok, allora a questo punto volevo chiederti una cosa più nello specifico. Prima ci alludevi al fatto che magari in alcune parti del movimento femminista c'era una componente, dicevi, ultrapacifista. All'interno del movimento femminista, la centralità che ebbero tutti gli scontri di piazza e tutti i confronti, la presenza di Black Bloc, piuttosto che l'andamento del corteo di Via Tolemaide, della morte di Carlo, come furono affrontati? Cioè il movimento femminista come valutò quegli scontri, quei momenti di piazza, cioè. E purtroppo una parte si è ritirata, si è trovata spiazzata e un'altra parte invece ha fatto l'analisi che la violenza o la non violenza non sono concetti assoluti, ma circostanziali, cioè vanno rapportati a un contesto politico specifico, per cui si tratta anche di concetti di autodifesa, che tra l'altro fa parte proprio del movimento femminista, è una parte del movimento femminista, cioè la difesa anche dei corpi e darsi i mezzi per farlo, quindi per evitare maggiore violenza che violenza strutturale, quindi è un discorso che va valutato momento politico, congiuntura per congiuntura, questo diciamo che è la parte che è rimasta, la maggior parte che è rimasta dentro il nostro movimento e nella marcia ha fatto questa analisi, però qualcuna si è ritirata, ha detto no, noi siamo contro ogni tipo anche di messa in scena di una risposta violenta, simbolica, non, ecco questo è stato così, però diciamo la maggior parte è rimasta e ha continuato il percorso poi verso gli altri forum sociali, verso il forum sociale europeo, Firenze, eccetera, e poi continuato fino al movimento contro la guerra anche in Iraq. Ok, allora, noi come ci siamo detti prima, nel fuori onda, quando non ci ascoltava ancora nessuno e nessuna, ci eravamo detti che dopo le prime due domande ci lasciavamo con un po' di musica per riprendere il fiato. Se per te va Certo, bene, se hai giusto. dell'idea, lasciamo un po' di musica. Questo è Yes. Flow Partisano delle Tremenda Cauria e ci rivediamo tra poco, sempre con Nadia, per parlare di Genova. A tra pochissimo. Ok. se va la matraca, se lo digo a traca, se quieren matar. No me hago loco, tronca, dejo mi impronta y me importa muy poco el percal. En el beat está el beat, te vuelvo a repetir, esta vida te quiere matar. Yo, flow partisano, baile de rebelión. Suban la gota gorda, dice la pista. Sin gran sentencia, el zoo politburó. Perteció mal a la oída y la vista. Flow partisano, peso, metral enemiga, una tortura. Que no hago la cintura y el medí, droga dura. Contra la dictadura del samix y la tortura. Contra la tiranía del oblig. Bruja su clave, la piel de gallina. Gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metrallar. De la paciencia, el drop estalla. Bruja su clave, la piel de gallina. Gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bailando en la misma. Allora, buongiorno di nuovo a tutti e tutte, torniamo in onda, sì, ho appoggiato tutti i tasti giusti, risalutiamo di nuovo Nadia, che è sempre con noi, ciao Nadia. Aspetta che... Pronto Nadia? Eccomi qua. Eccoci qua, mi ero dimenticato di alzarti il volume, ora c'è tutto. No, in realtà, a proposito di volumi, io chiedo scusa a chi ci ascolta e chi ci ascolterà, perché nel campo sportivo qui di fianco a noi, magari Nadia non lo sente, però c'è in corso una festa della comunità ecuadoregna, per cui c'è un po' di musica che arriva, ogni tanto un microfono che parla, c'è un po' di meticciato che ci piace sempre tanto. E va bene, allora, per continuare con le nostre domande, passiamo alla terza. A distanza di 20 anni da quelle giornate, ci sono aspetti sui quali all'epoca non sei stata disposta a cedere, individualmente o collettivamente, ma che ora vedi con un'ottica differente? Se ci sono, possiamo chiederti di raccontarci quali sono questi aspetti? Allora, aspetti su cui non eravamo disponibili a cedere, che adesso... No, beh, onestamente non ne vedo molti, nel senso che le questioni per cui lottavamo allora sono ancora tutte sul tavolo e certo, abbiamo avuto alti e bassi, ma diciamo in grandi linee siamo ancora qui. Se si deve parlare di limiti, forse un limite che c'era allora e che c'è anche adesso è di portare comunque a casa delle vittorie reali, di cioè riuscire a non solo essere un movimento di opinione che porta in piazza delle opinioni anche forti, ma riuscire veramente a far male al sistema, a questo sistema articolato che incrocia appunto tutti questi assi di opere, colpirlo, riuscire a strappare, a mordere, a strappare dei pezzi, a avere delle conquiste che veramente fanno la differenza per la vita reale di donne e uomini di tutti i tipi in questo paese e nel mondo. Questo rimane per me la questione chiave che c'era allora, e forse già sto avanzando un po' sulla quarta domanda, che appunto sui limiti del movimento. Che era di tutti noi e tutte noi, riguardava proprio questo, di avere la positività di dire vogliamo un'alternativa veramente globale, veramente omnicomprensiva, molto radicale, però che faticava a mettere radici, piedi per terra, radici nelle miserie, nelle contraddizioni, tra chi stava veramente male e riuscire, o chi so, anche tra chi stava un po' meno male, ma comunque nel fango, diciamo, delle difficoltà di vita delle persone in carne comune, in carne e ossa. Scusami Nadia, perché questo concetto qua mi interessa molto. Secondo te, quindi, il movimento che si presentò a Genova non era in grado di interpretare veramente i bisogni delle persone o non aveva soluzioni, non aveva strategie per creare il mondo diverso che voleva? Diciamo che parzialmente, in alcune parti sicuramente riusciva a interpretare i bisogni, ma sì, penso che non aveva le strategie sufficienti per produrre questa alternativa. E neanche c'era la famosa questione che appunto quello che ci raggruppava era l'idea generale dell'altro mondo, di un altro mondo e del no soprattutto al mondo come va, però quando si trattava di cercare di focalizzare su un obiettivo preciso, tipo questa cosa non deve esserci, tipo la guerra appunto. Con la guerra siamo ancora riusciti più o meno a convergere, ma su altri punti che riguardavano di più il mondo del lavoro piuttosto che degli obiettivi del movimento delle donne, non c'era dietro tutto il movimento. Era molto difficile creare forza critica, massa critica su un obiettivo in particolare, uno, due, tre obiettivi in particolare. Però è un problema che c'è tuttora, non è risolto. Quindi c'è da una parte un sposarsi in modo un po' ecumenico di tutte le questioni che riguardano l'umanità e il pianeta, però d'altronde è un sposare queste problematiche appunto un po' in Brasile si dice dalla bocca in fuori, cioè a parole o anche di convincimento, ma non di mobilitazione costante e forte che è necessaria purtroppo con questi rapporti di forza mondiali per strappare veramente qualcosa. E forse, boh, non so, neanche per altre parti forse non siamo neanche riusciti e riuscite a penetrare sufficientemente nelle coscienze delle persone. In parte sì, ma in parte forse anche no. Quindi, cioè, si può dire che magari a Genova c'era un movimento dei movimenti che era un movimento di opposizione e non è poi riuscito tanto ad essere un movimento di costruzione di alternativa. Ecco, io però personalmente sì, però personalmente penso che sono due cose molto dialetticamente legate, cioè penso che la novità di questi ultimi anni, parlo del movimento femminista Sì, di questa piazza andata, ma anche dei movimenti sociali più in generale, e che costruiscono veramente alternative reali dal basso a livello molto locale. Ed è una cosa molto bella. Penso anche a Black Lives Matter, per esempio, piuttosto che altri movimenti anche di donne che contro la distruzione della vita, molto reale, materiale, costruiscono una solidarietà altrettanto concreta, materiale, che permette di tirare avanti e di lottare. Tipo il Questa è piano. la parte costruzione, e se Certo. vuoi anche il movimento Zapatista è maestro Certo. in questo. Sì. Ma io penso che questa non può essere slegato al lottare contro, cioè diciamo un lottare pro per, che non può essere comunque il costruire solamente nel locale, che è già tantissimo e va benissimo, però deve essere anche per distruggere gli assetti di potere che sono enormi e che ci condizionano comunque. Cioè io non credo che è possibile un esodo da questo sistema, bisogna distruggerlo proprio, ma anche costruendo già alternative oggi, perché non è più che pensiamo che a lungo termine, medio, lungo termine, prima o poi arriverà il gran giorno, cioè ha bisogno di alternative adesso. E questo è un po'. Lo vedo proprio degli ultimi anni, non c'era molto meno nel momento di Genova. Ok, questa cosa è molto interessante, nel senso che nelle altre interviste non era emerso questo punto. E va bene. E allora a questo punto io passo all'ultima domanda. Ti ringraziamo intanto per la disponibilità e il tempo che ci hai dedicato. Nell'ultima domanda ti chiediamo da cosa dovrebbe ripartire il movimento per tornare ad essere così importante nella vita pubblica del mondo, come fu quello di Genova? Sicuramente da dove lo sfruttamento, il conflitto, l'aggressione maggiore, e non è facile, cioè parlo dei braccianti nelle campagne d'Italia, che muoiono sotto il sole. Parlo anche ovviamente dei rifugiati, ma parlo dei rider, delle condizioni di lavoro, ma anche dei precari e delle precarie più in generale. Parlo anche della violenza contro le donne, che è molto aumentata, tra l'altro, nella pandemia e in queste situazioni di chiusura. Perché sappiamo che la prima Certo, violenza è in casa. in ambito familiare, domestico, cioè, queste violenze che ogni 3 giorni una donna viene ammazzata in Italia per mano di una mano amica, famiglia, parente, partner, eccetera. Cioè, dalle cose dove la scarpa duole di più, dove c'è proprio lì, da lì penso che bisogna esserci innanzitutto, bisogna esserci, condividere, lottare insieme, e forse abbiamo una comprensione maggiore comunque di questa famosa intersezionalità, che anche se lo affronti a partire da una questione, poi tocchi per forza tutto il resto, perché è tutto legato. E quindi prima di costruire sovrastrutture, che so che ci piace tanto pensare che basta convocare gli stati maggiori e poi il resto segue, io penso di no, penso che bisogna proprio ripartire dal basso, da chi ha più difficoltà, è più sfruttato, più oppresso, che non è solo uno sfruttamento economico, parlo anche di tutte le contraddizioni di genere, dell'omotransfobia, di tutto quanto, insomma, è tutto legato e tutto. Se si ricomincia da lì, ognuno laddove riesce ad arrivare, poi si convergerà, poi affronteremo anche il macro. Questo è il mio parere. Va bene, allora ti ringraziamo tantissimo perché sono state delle opinioni veramente fantastiche e dei vissuti importanti con cui un po' metterci in relazione se vogliamo riflettere veramente a fondo su Genova. Per cui adesso l'ultima domanda. Un'altra Dimmi, cosa, dimmi, no, dizia. niente, non vorrei però che questo che avevo appena detto vuol dire un ritirarsi sul localismo, perché nello stesso tempo io continuo ad avere relazioni internazionali e penso che siano assolutamente fondamentali, diciamo, ma ci permettiamo anche di mantenere queste relazioni internazionali pur mantenendo i piedi ben nella nostra località concreta. Ecco, queste due cose anche vanno combinate. Scusami, io intanto mi stavo appuntando le cose che dicevi perché sono molto interessanti. E sì, questo vizio dell'internazionalismo, del condividere su un piano globale le lotte, eccetera, è una cosa che hanno riportato tutte le persone che abbiamo intervistato. Per cui sì, Sì. questa cosa non può mancare, è evidente, cioè, viene Certo, consigliata proprio certo. da tutti e da tutte. Va bene, allora guarda, l'ultima domanda che ti faccio in realtà è una cosa molto più leggera e semplice. Se hai voglia di consigliarci un brano musicale che ascoltavi 20 anni fa quando eri a Genova, quando eri appena tornata da Genova o poco prima di andare a Genova, lo facciamo ascoltare così infine della. Beh, penso che sia molto banale e condiviso, ma non può che essere Manu Ah, Chao. ci hanno detto anche questo, ci hanno detto tutte le persone che abbiamo intervistato, ci hanno detto così. Allora, vediamo cosa abbiamo noi nel nostro fantastico database per quanto riguarda Manu Chao. Guarda, mettiamo Clandestino. Eh sì, per Direi che è forza, proprio un classicone. assolutamente. Perfetto, allora ti ringraziamo Nadia, ci sentiremo più avanti. Noi l'intervista adesso è tempo di fare le correzioni della post-produzione ed uscirà nei prossimi giorni, verrà messa nell'archivio insieme alle altre interviste. Grazie mille davvero. Figurati, è stato un piacere. Ciao, ciao Buona giornata, ragazzi. Ciao, ciao a tutti e a tutte. ciao. Solo voi con mi pena, solava mi condena, correre mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Grazie.